Suona la sveglia e mi alzo, sbalzo dal letto con lo sclero. Vivo una vita di merda e son sincero. Vada come vada, seguo il mio sentiero. Però dopo anni e anni ne vado fiero. Per quel poco che faccio, almeno non sono legato da un catenaccio. La gente parla senza conoscerti, ti dà del pagliaccio. Un saggio una volta mi ha detto pensa a te stesso. Ci ho pensato, ma guarda come son messo. Guarda come son messo. Se non capisci il nesso è tutto più complesso del normale. La solita routine, come se giochi a poker, sei convinto e vai all'in. Poi ti accorgi di avere un punto basso. Se potessi tornare indietro passo. Ho il sangue che scorre nelle vene, non conviene scherzare troppo. Una, due, tre volte si può stare al gioco, ma potrebbe durare troppo poco. Potrebbe durare troppo poco. La solita routine è troppo presto, mi alzo con l'angoscia ma fa lo stesso. Il tempo di un espresso e si incomincia, il tempo di un espresso e si incomincia. La solita routine, la solita routine. È troppo presto, mi alzo con l'angoscia ma fa lo stesso. È sempre tutto così più complesso, è sempre tutto così più complesso. È la solita routine, la solita routine. Sono affetto da una sindrome ma non di fine millennio, perché delle volte mi impegno. L'unica cosa che c'ho un microfono come attrezzo, e delle volte me ne sbatto e spingo il vero sempre grezzo. Entro nel mezzo del discorso quando un buon motivo ce l'ho e rimane sempre lo stesso. Non è mica uno scherzo, cosa immaginavi se nella realtà è normale? È tutto diverso, dammi retta. Solo sei soldi la vita è perfetta, solo sei soldi la vita è perfetta. La solita routine è troppo presto, mi alzo con l'angoscia ma fa lo stesso. Il tempo di un espresso e si incomincia, il tempo di un espresso e si incomincia. La solita routine, la solita routine. È troppo presto, mi alzo con l'angoscia ma fa lo stesso. È sempre tutto così più complesso, è sempre tutto così più complesso. È la solita routine, la solita.